Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Fumogeni tutto, sì, cioè siamo rimaste qui in mezzo, non possiamo uscire da lì e da qui, guarda, ci hanno bloccato tutte le strade. E dalla stamattina alle 9:30 che noi siamo in piedi a girare, ci hanno bloccato tutte le strade, non volevamo fare niente di più, guarda, niente di meno che fare, cioè, un corteo in tranquillità. Poi partono come pazzi loro perché non si sa che problemi hanno. Invito gli studenti, i docenti universitari a seguire, a monitorare insieme alla sottoscritta l'attuazione di questo disegno di legge. Monitoriamo l'andamento, vediamo come funzionerà, quali risultati porterà prima di bocciarlo in maniera pregiudiziale. Sono andati sotto per la terza volta la Camera sulla riforma. Non avrete il tempo di fare diventare queste norme una legge. Il vostro percorso finirà molto prima. E l'arroganza con cui avete cercato di imporre questa finta riforma sarà il vostro ultimo atto di debolezza. Quello che noi volevamo fare è una cosa molto semplice, cioè manifestare il nostro dissenso. In questa città e in questo paese la possibilità di manifestare il dissenso liberamente come negli altri paesi europei viene costantemente negata. Comunico il risultato: presenti 566, votanti 559, astenuti 7. Maggioranza 280, favorevoli 307, contrari 252, la Camera approva. E torniamo anche questa settimana, come avrete ben capito, sulla riforma dell'università passata martedì alla Camera fra le proteste di ricercatori e studenti, come avete sentito. Ora se ne riparla dopo il 14 dicembre, data peraltro molto delicata, perché se ne riparla dunque dopo il dibattito sulla fiducia al governo, bisognerà vedere come si metteranno le cose. Vorremmo però ora capire un po' meglio cosa dice questa riforma, quali sono le novità che introdurrebbe, ammesso che arrivi all'approvazione finale. Abbiamo dunque deciso di dedicare a questo tema ben due puntate di questa trasmissione. In particolare oggi vi faremo sentire le ragioni del sì alla riforma. La prossima settimana invece vi faremo sentire le ragioni del no. Speriamo così di chiarire un po' meglio il quadro, perché in mezzo a tanto rumore, a tanto chiasso, a tante polemiche, a tanti strilli, alla fine si rischia di perdere di vista la cosa più importante, il contenuto di questo disegno di legge. E allora ce lo facciamo raccontare nei suoi punti salienti, nelle sue novità più importanti, da chi meglio lo conosce. Da Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e relatrice del provvedimento. Ma intanto il fatto che ci siano delle norme sulla trasparenza, come l'introduzione di un codice etico, la norma cosiddetta su Parentopoli che fa sì che venga contrastata la piaga del fatto che i professori già nelle sedi universitarie chiamassero i propri parenti, e già insomma queste norme etiche sono importanti, il fatto che i rettori non possano stare più di 6 anni nel loro ruolo, questo vuol dire che garantisce un avvicendamento ovviamente. Quindi da un punto di vista etico e di trasparenza. Poi abbiamo delle norme che riguardano e salvaguardano la premialità, cioè chi ha i bilanci in ordine, le università virtuose hanno l'opportunità naturalmente di avere più risorse, la progressione di carriera dei professori non è più legata solamente agli anni che passano, all'anzianità, ma al merito. La governance è stata modificata e il Consiglio di amministrazione pensa alla gestione, il Senato accademico si concentra sulla didattica e la programmazione triennale. Io credo che già solamente questi 3 o 4 principi contenuti, che poi si possono riassumere con le parole autonomia, responsabilità e meritocrazia, siano delle linee guida importanti di tutto il provvedimento. Ecco, chi protesta dice: in questo modo si precarizza ancora di più la figura dei ricercatori. Ma non è assolutamente vero, innanzitutto cioè, questa situazione di precarietà nasce da politiche sbagliate, sconsiderate di 20-30 anni fa. Per mettere un freno a questa situazione d'emergenza, il provvedimento prevede per i giovani ricercatori la tenure track, cioè la possibilità di effettuare un contratto a tempo determinato di 3 anni e poi ancora di 3 anni con le università, più 2 anni di intervallo, sostanzialmente il ricercatore può stare 8 anni con un contratto a tempo determinato, poi se avrà superato con le pubblicazioni gli esami potrà diventare professore associato. E d'altra parte abbiamo il fatto che vengono effettuati questi concorsi che porteranno per ora 4.500 ricercatori a diventare associati, è sicuramente una strada che proprio contrasta il precariato. Non dimentichiamoci poi che il numero dei precari, si parla di 26.000, la maggior parte hanno anche un'età 60-65 anni e quindi ormai non sono più interessati a effettuare il passaggio alla categoria degli associati. Questo riguarda un numero che equivale più o meno a 9.000 ricercatori, che erano poi quelli che io avevo inserito nell'emendamento prima che la Commissione Bilancio lo bloccasse perché le risorse erano inferiori, quindi è stato stabilito un numero di 4.500. Le borse di studio anche a redditi alti, quindi secondo il merito, non solo secondo il reddito. Secondo chi protesta invece bisognerebbe dare i soldi a chi ne ha bisogno. Indubbiamente le borse di studio devono essere date in base al merito. Io sono però credo che ancora adesso lo strumento dei prestiti d'onore, per esempio, vada nel senso che un prestito d'onore viene dato a chi ora non può permettersi delle spese relativamente alla propria carriera universitaria, gli vengono anticipate e poi le restituisce quando avrà un'occupazione lavorativa. Poi con un mio emendamento, che orgogliosamente rivendico perché mi è stato suggerito proprio dagli studenti, chi è in regola con gli esami sia come tempi che come votazioni, perché ha il voto massimo, non sarà esentato dal restituire questi prestiti. Mi è passato questo emendamento in Commissione Cultura alla Camera, che mi sembra molto importante. Le regole antiparentopoli che lei ha sottolineato, fino al quarto grado di parentela è vietato lavorare nello stesso ateneo. Ecco, chi protesta dice però insomma si fa una legge senza guardare poi nello specifico, se uno è figlio di un rettore piuttosto che di un professore ma è bravo, a questo punto non potrà più esercitare. Beh, insomma, significa proprio che non si è mai contenti, nel senso che questa richiesta che è venuta soprattutto dal Partito Democratico e che poi abbiamo rimodulato in un emendamento che ha avuto la possibilità di far convergere tutti i partiti, a parte l'Italia dei Valori, che volevano una legge ancora più restrittiva, ma secondo noi anticostituzionale. Il fatto che finalmente si sia dato un segnale contro il parentopoli è importante e l'ha voluta anche l'opposizione. Anche perché quello che succede nelle università da questo punto di vista è purtroppo tragicamente noto. Esatto, quindi quantomeno, poi tutte le regole purtroppo impegnandosi si riescono ad aggirare, però è chiaro che noi come legislatore abbiamo l'obbligo di inserire dei principi che sono anche richiesti dalla collettività e questo era un punto dove davvero c'era nella sensibilità comune tanta attenzione, quindi siamo contenti di averlo fatto approvandolo tutti insieme. È tutto, ci risentiamo come sempre sabato prossimo alle 12.45. Se volete riascoltare questa trasmissione lo potete fare andando su radio24.it.